Sì, sì, scusate, scusate. Ok, posa 2008 e mi intrometto un attimo. Ok, sulle mani, sì. La red di tutti quanti. Prima di salire c'ho l'ansia da prestazione. So che ogni parola comporta un'emozione. Saziona il pubblico sotto il palco. Alza le mani, urla, ma solo se non sei scarso. Spero che il mio live in tutto vada bene. E te lo rappo crudo come il San Daniele. Alza il microfono come un megafono. Partorisco rime e le labbra si dilatano. Metto concetti nella testa e non vado mica a sparare come un gangsta. Ok, aspetta, nessuno ha la vita perfetta. Io vorrei una Ferrari, ma me la viaggio in bicicletta. Lo stomaco mi si contorce, grondo gocce quando sul palco vedo le loro facce. Ma faccio finta di niente e scorro le mie rime come l'acqua di un torrente. Senti, prima di salire, prima di salire, prima di salire. Ansia da prestazione. Prima di salire, prima di salire, prima di salire. Ansia da prestazione, sì. E lo sento tutto dentro che s'aggroviglia. Scompare se poi mi bevo un'intera bottiglia. Sale la voglia, la gente qua è sveglia. E panico come quando ti cerca ogni pattuglia. Ansia che per ora non se ne va. E non mi ricordo neanche se ho chiuso il gas. Agitazione che non va via più. Agitato come se avessi fatto la doccia nel Red Bull. Ma quando hanno sulle mani li fai saltare come canguri australiani. Vogliono altri brani, li conquisti come con gli indiani. La gente ascolta ciò che dici, non se ti vesti con i carcani. Io ho sudore, la voce che finisce. Scrivo le mie strisce, mie, mica stelle strisce. Così la gente capisce. Esce invece di stare davanti a uno schermo. Più contatti umani, qua non c'è più tempo. Prima di salire, prima di salire, prima di salire. Ansia da prestazione. Prima di salire, prima di salire, prima di salire. Ansia da prestazione. Ansia da prestazione. Sì, ma oh.